orchestrina jazz. L'acqua ribolliva lentamente ad est. L'esplosione poi, dolce, dolce, una bronzatura atomica. Tra la musica, dolce, dolce, tutto andava giù. Mentre la TV diceva, mentre la TV cantava, vedila perché è tropicana, yeah. Mentre la TV diceva, mentre la TV cantava, vedila perché è tropicana, yeah. La luce della notte, la città di San José. Radio Cuba urlava fuori dal caffè. La lava incandescente cremava gli hula hoop.